l'Eucaristia, culmine e fonte della vita del cristiano. Ha scritto Igino Giordani: Gesù non solo diede la sua vita per noi, ma ci lasciò la sua vita, permanentemente, in mezzo a noi per comunicarcela di continuo. Tutto ciò è chiarissimo. Gesù dà un pane per cui l'anima che se ne ciba non morirà. E questo pane è lui stesso, carne e sangue. I veri cristiani dei primi secoli seguitavano a credere e ad amare l'Eucaristia, il sacramento che non solo ci dà la grazia, come gli altri sacramenti, ma ci dà Gesù Cristo medesimo, che è l'autore della grazia. San Nicola Cabasilas, un santo della Chiesa orientale, nato intorno al 1320, morto intorno al 1390, ha scritto nella Vita in Cristo: i sacramenti, misteri in greco, sono detti porte di giustizia in quanto rendono possibili i nostri ingressi al cielo. Se le finestre dicono il movimento della luce che discendendo dall'alto è attesa dal basso, pure le porte evocano un duplice movimento. Infatti, perché potessimo salire verso il cielo, passando attraverso quelle porte che giustificano, si è reso necessario che colui che non ha commesso ingiustizia si affacciasse prima dal cielo, aprisse queste porte e venisse verso la nostra stirpe. Per mezzo della sua morte in croce, Cristo ha unito a sé la nostra natura, per mezzo della carne che aveva assunta. Ora, in virtù dei misteri, unisce ciascuno di noi alla sua carne, ossia al suo corpo, al fine di comunicarci la sua giustizia e la sua vita. Dopo essere entrato nel santuario celeste offrendo se stesso al Padre, Cristo ora, attraverso le porte dei sacramenti, vi introduce coloro che vogliono comunicare la sua sepoltura, non già morendo fisicamente come lui, ma significando quella morte nel lavacro e annunziandola sulla sacra mensa e ricevendo la crismazione e gustando in maniera ineffabile colui che è morto e risorto. Raffrontate con quelle dell'Eden, le porte dei sacramenti sono ben più venerande e utili. Infatti, quelle potevano far uscire coloro che erano dentro. Queste invece fanno soltanto entrare e non fanno uscire nessuno. Era giusto che le porte del paradiso, aperte per Adamo, venissero chiuse allorché questi non dimorò là dove doveva dimorare. Queste invece fu Cristo stesso ad aprirle. Egli che non commise peccato né può peccare, perciò è assolutamente necessario che rimangano aperte, che introducano alla vita e non permettano a nessuno di uscire dalla vita. Dopo il miron, l'olio della consacrazione della cresima, veniamo alla mensa. Qui è il culmine della vita. Per quanti sono arrivati fin qui, non manca più nulla alla felicità che cercano. Infatti, attraverso la mensa, non è più una morte e una sepoltura e la partecipazione a una vita migliore che noi conseguiamo, bensì il risorto stesso. Né sono più i doni dello Spirito, per quanto abbondanti si possano ricevere, ma è il benefattore stesso, il Tempio stesso sul quale si fonda il ciclo delle grazie. Certo, egli è presente in ogni sacramento. È in Lui che veniamo crismati e lavati. È Lui la nostra cena. Egli si rende presente agli iniziati e distribuisce loro i Suoi doni, ma non allo stesso modo in tutti i sacramenti. Quando lava, allontana l'argilla dal male e le imprime la propria forma. Quando crisma, attiva le energie dello Spirito, di cui è divenuto egli stesso il depositario, a motivo dell'incarnazione. Quando poi introduce a mensa e dà a mangiare il proprio corpo, allora trasforma interamente l'iniziato e lo cambia nel suo proprio modo di essere. Pertanto l'argilla non è più argilla, essa che ha ricevuto l'impronta regale, ma già è divenuta essa stessa corpo del re. Né si può immaginare felicità più grande di questa. Anche per questo motivo il sacramento dell'Eucaristia viene per ultimo, per il fatto, cioè, che non è possibile andare più oltre, né aggiungervi altro. È evidente che il primo sacramento ha bisogno di quello intermedio, e questo dell'ultimo, ma dopo l'Eucaristia non vi è più nulla a cui si possa attendere, ma dobbiamo fermarci qui e cercare di comprendere con quali mezzi si possa custodire fino alla fine il tesoro. Se Cristo dimora in noi, che cosa ci potrebbe ancora mancare? Quale bene ci potrebbe sfuggire? E se noi dimoriamo in Cristo, che altro potremmo desiderare? Per noi Egli è abitante e abitazione. Beati noi per il fatto di poter contare su quell'abitazione, e beati anche per essere divenuti abitazione per un così illustre abitante. Egli, disponendosi tutto intorno, impedisce che le frecce lanciate dall'esterno ci raggiungano. È, infatti, abitazione. Se poi si trova alcunché di male in noi, egli lo scarta e lo scaccia, giacché è un abitante che riempie tutta quanta l'abitazione. L'anima e il corpo e tutte le facoltà divengono all'istante spirituali, poiché la nostra anima si mescola alla sua anima, il nostro corpo al suo corpo, il nostro sangue al suo sangue. Qual è allora il risultato? La parte migliore e più eccellente ha il sopravvento sulla parte più debole, la divina sull'umana, e come dice Paolo a proposito della risurrezione, ciò che è mortale è inghiottito dalla vita. E ancora, vivo, ma non più io, in me vive Cristo. O grandezza dei sacramenti, quanto sublime è sapere che la mente di Cristo si mescola alla nostra mente, la sua volontà alla nostra volontà, il suo corpo al nostro corpo, il suo sangue al nostro sangue. L'Eucaristia è il solo rito che conferisce la perfezione agli altri sacramenti. Essa li assiste nel momento stesso in cui sono conferiti, poiché senza di essa non possono conferire la perfezione. Essa poi li assiste anche dopo che sono stati conferiti, allorché si tratta di ravvivare in coloro che li hanno ricevuti il raggio infuso dai sacramenti e oscurato dalla tenebra dei peccati. Fra tutti i santi sacramenti ce n'è uno solo, e cioè il sacramento della confessione, che possa sciogliere da ogni condanna presso Dio giudice coloro che si pentono dei loro peccati e si confessano al sacerdote. Tuttavia, neppure questo sarebbe efficace se non si prendesse parte al sacro convito. Perciò noi veniamo lavati una volta per tutte, ma ci accostiamo alla mensa molte volte. La ragione è che, essendo uomini, ci accade ogni giorno di offendere Dio, e quando cerchiamo di essere prosciolti dal capo d'accusa abbiamo bisogno di conversione, di penitenza e di vittoria sul peccato. Eppure tutto questo non potrà agire contro il peccato se non si aggiunge l'Eucaristia, il solo rimedio, farmacon, che esista per tutti i mali degli uomini. Cristo infatti non ha rivestito soltanto un corpo, ma ha preso anche un'anima, una mente, una volontà e tutto ciò che è umano, al fine di potersi unire interamente a nooi in tutto e pervaderci interamente e fonderci in Lui, aderendo con tutto se stesso a tutti gli elementi del nostro essere. Il peccato è la sola cosa che non possiamo avere in comune con Lui. Tutto il resto, nella sua divina umiltà, l'ha ricevuto da noi e lo unisce a noi con una tenerezza ancora più grande. Il primo atto d'amore era che Dio discendesse sulla terra, il secondo che dalla terra ci conducesse in alto. Il primo era che si facesse uomo, il secondo era che l'uomo venisse divinizzato. Questo sacramento è luce per coloro che già sono stati purificati, è purificazione per coloro che si stanno ancora purificando, è massaggio per coloro che lottano contro il maligno e le passioni. Pertanto, con questo corpo, nel quale egli stesso è stato provato e ha vinto, egli può venire in soccorso di coloro che stanno combattendo. Siccome non vi era nulla in comune tra la carne e la vita spirituale, proprio per questo fu escogitata una carne contro la carne, contro la carne terrena, quella spirituale. Per questi motivi abbiamo sempre bisogno di quella carne e continuamente gustiamo di quella mensa. Questo sacramento è perfetto sotto tutti i punti di vista. Non v'è nulla di cui gli iniziati abbiano bisogno che tale sacramento non dispensi pienamente. Ma siccome la povertà della materia non permette che il sigillo resti immutabile, infatti noi portiamo, dice San Paolo, questo tesoro in vasi d'argilla, per questo non è una volta per tutte che gustiamo il rimedio, ma senza interruzione. È necessario che il vasaio stia sempre accanto all'argilla e ripari d'impronta non appena essa si è deformata. Bisogna che noi ricorriamo continuamente alla mano del medico perché curi la materia che si sbriciola e raddrizzi la volontà che si inclina, sicché non sopraggiunga a nostra insaputa la morte. Primo gennaio 1977. È in corso un congresso di giovani del movimento dei focolari e il tema centrale è l'Eucaristia. Igino Giordani concede loro un'intervista molto vivace, qui ne proponiamo alcuni stralci. Le conversazioni, dice Igino, di Chiara Lubich sull'Eucaristia sono state per me come una rivelazione. Mi hanno fatto conoscere in una maniera più vasta, più precisa, più profonda, l'effetto che l'Eucaristia ha sulla società, oltre che sull'individuo. Ho visto che il progresso della coscienza cristiana, sia nell'individuo che nella società, dipende dal progresso della coscienza dell'Eucaristia nei cristiani. In altri termini, se noi sappiamo che cos'è l'Eucaristia e la viviamo come essa è, allora tiriamo fuori dal cristianesimo il più profondo valore, sia per la nostra anima che per la società. L'Eucaristia infatti fa l'unione dell'uomo con Dio. Essa rappresenta il mistero dell'amore di Cristo verso l'umanità. È la comunione con Cristo e con i fratelli. È l'unità con entrambi. Se si vuole un progresso delle aspirazioni comunitarie, unitarie della società di oggi, che sono le aspirazioni più belle contro i particolarismi, i razzismi, le tirannidi, eccetera, bisogna realizzare un progresso di questa coscienza eucaristica. Bisogna vivere con profondità questa realtà. Si può dire che la relazione con Dio e con l'uomo stesso è un mistero eucaristico, quello in cui Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio, niente di meno. Chiara, con le sue spiegazioni, ci vuole inserire coscientemente, non solo nel pensiero di Cristo, ma nella persona di Cristo, nella sua umanità e nella sua divinità. Ci vuole mettere a convivere mediante la comunione sacramentale con la divinità e con l'umanità di Gesù, tutte e due. È una rivoluzione che deifica l'uomo e lo mette contro e sopra il processo di degradazione in corso nella società. Dall'Eucaristia comincia la rivolta contro la morte. Chiara così impone un carattere di eroismo, di santità alla nostra vita. Non serve ad essi la mediocrità per stare nella convivenza umana. Viene a mente la domanda dell'angelo alle anime che entravano nel purgatorio di Dante. O gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Cioè, O uomo, perché tu, che sei nato per volare a Dio, ti lasci cadere nel peccato così facilmente e perdi questo volo? La santità è eroismo, ma un eroismo facilitato immensamente dal nutrimento quotidiano del pane eucaristico. Esso comporta una devozione quotidiana, assidua, di giorno in giorno più alta, sopra la mediocrità di cui vive tanta parte dell'umanità oggi. Una mediocrità fatta di menzogne, di lussuria, di furti, di indifferenza, di violenza, che non è un vivere, ma un organizzare stoltamente la nostra agonia. Con l'Eucaristia si vola,